Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Good morning, Vietnam! Con urlo, l'urlo di Adrian Cronauer e poi il violino di Owen Pallett si è aperta la quarta parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Adrian Cronauer interpretato da Robin Williams, che interpretava quel film nel 1987 per la regia di Barry Levinson, Good Morning Vietnam. Qui c'era l'urlo, invece nella terza parte di Eclettica c'era un estratto di una delle sue trasmissioni radiofoniche, appunto sul territorio vietnamita durante il famoso conflitto a cui tanti film sono stati dedicati. Invece Owen Pallett si presenta con lo pseudonimo di Final Fantasy, Epoos Clouds, il suo nuovo disco uscito per la Tom Lab nel mese di maggio, dal quale in questo periodo in Eclettica vi state ascoltando Many Lives 49MP. Invece in settimana, come pillola, è comparso un artista dal nome che non sembrerebbe statunitense, anche se lui vive ed opera negli Stati Uniti, Imad Vasif, un disco omonimo che esce per la Kill Rock Stars, per quello che una volta era il leader, il frontman degli Alaska, altra band con il punto esclamativo esattamente come il Volcano che in settimana ci siamo ascoltati. È un bel disco intimista quello di Imad Vasif, tante belle ballad che ruotano attorno principalmente alla sua chitarra. Noi ci ascoltiamo Out in the Black. Out of my head, and I went too far. I never said that I could save you from the dark. I've been trying to maintain, but it's always in vain, and I'm already gone. Don't wanna cry for the dead things. Don't wanna open up the wounds that never heal. I found a space between for all those memories out in the black where they keep me company. I've been trying to maintain, but it's always in will the sun shine again when I'm gone? Lui era Imad Yasif, ci ha fatto ascoltare questo brano dal titolo dov'è? Mi sono distratto, lo ammetto, Out in the Black. A questo punto sarebbe dovuta partire questa musica. Ogni tanto capita la distrazione. Vabbè, dovrei stare più attento. Le cinque poltrone girevoli erano allineate lungo i finestrini della vettura panoramica del rapido Tokyo-Kyoto. Toshio Oki si era accorto che ad ogni movimento brusco del treno, una delle poltrone sul lato opposto, l'ultima della fila, prendeva a girare a vuoto. Le poltrone basse della fila in cui si trovava erano fisse. Oki era l'unico viaggiatore in quel vagone. Sprofondato nel sedile, guardava distratto la poltrona sull'altro lato, che continuava a girare su se stessa. Non che girasse sempre nella medesima direzione o con la medesima velocità. Accelerava, rallentava, si arrestava di tanto in tanto e a volte rimaneva completamente immobile per qualche minuto. Poi riprendeva a girare nella direzione opposta. Guardando la poltrona che girava da sola nel vagone deserto, Oki sentiva affiorare la solitudine stagnante in fondo al suo cuore, dove continuavano a fluttuare pensieri incerti. Questo era l'incipit di Bellezza e Tristezza di Yasunari Kawabata. We'll be right back. fari spenti. Pensa ancora quando soldi lei non piange più. Guarda in fondo il vostro cuore, poi si butta giù. Pat Grief è il titolo del nuovo album per la svedese Labrador, degli altrettanto svedesi, visto che sono di Lund Radio Department, che ci siamo appena ascoltati con la nuova The Worst Taste in Music, questo è il titolo del brano, appena passato in Eclettica, giunta più o meno alla metà di quella che è la quarta parte di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Vi ricordo i biglietti per Marco Parente, DVD Recording alla Casa 139 di Milano, 28 giugno, tutto questo, e vi ricordo anche, però chiedendo di stare fermi al momento, che il 1 luglio a Ferrara, il 3 luglio a Roma, ci saranno i Flaming Lips e Eclettica vi manderà gratis. Se non ci potrete andare, c'è anche la possibilità di vincere qualche disco. Guardate un po' che roba, eh? Flaming Lips, gruppo che da sempre, perlomeno dai 12 anni di presenza qua su Rock FM, hanno caratterizzato le playlist di Eclettica. Perché dico questo? Perché comunque Eclettica esisteva prima ancora di arrivare a Rock FM. Una storia che prima o poi magari potrò anche raccontare. Caboto è un gruppo italiano di base a Bologna che passò anni fa in Demolition, quando Demolition faceva parte di Eclettica. Ora incidono per la Fratto 9 Under the Sky Records e sono usciti con un bel disco, Hidden or Just Gun, dove le loro atmosfere jazz trovano anche percorsi nuovi e che comunque li fanno ascoltare con molta attenzione. Fatemi sapere la vostra, come sempre, sia su questa che su tutte le altre opere che sentite passare in Eclettica. Noi ci ascoltiamo proprio il brano, lungo brano, che lo apre, This Architecture, Glass Elephant Goes Downtown. Questa settimana di Eclettica, che è la numero 35, l'ho voluta chiudere proprio con questo brano. È un brano che è significativo, secondo me, significativo di una bella chiusura di stagione. Non è che poi sia stata una stagione, dal punto di vista musicale, che mi abbia entusiasmato. Questo ve lo devo dire con tutta sincerità. Sono ben poche e non è una lista preparata, quindi rischio di fare veramente torto a qualche nome che invece in questa lista potrebbe entrare. Sono stati ben pochi comunque i dischi in questa stagione che mi abbiano davvero in qualche modo suscitato entusiasmo, ma poi neanche tantissimo. Quei dischi che comunque mi ricordo, sì, mi sono piaciuti, ma forse non sono dischi di cui mi sono veramente innamorato. A partire da inizio stagione, da due prove, come Tac dei Sigur Rós o come l'esordio degli italiani Marquez, per poi invece passare interi mesi di un lungo e freddo inverno e ritrovarmi qui, ormai quasi in chiusura di questa 12ª stagione di Eclettica, con due dischi che invece mi hanno fatto ritornare quelle piacevoli sensazioni. Quello dei Boards of Canada, che abbiamo ancora in sottofondo, con Divan Cowboy dal titolo Trans Canada Highway, e peccato che sia solo un EP, e anche con il disco del fino ad ora misconosciuto Jody Wildgoose. E quindi con queste parole sulla poca buona musica della stagione in corso, nonostante in Eclettica di musica io ve ne abbia fatta ascoltare tanto, però così dato spazio a questo outing sulla mia insoddisfazione in generale della stagione musicale, con queste parole quindi io arrivo anche ai saluti e arrivo alla chiusura di Eclettica, della 35ª, come già vi dicevo, settimana di Eclettica, che vi ricordo è sempre a disposizione in podcasting con le relative pillole. Vi ricordo il mio indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com, indirizzo di mail da utilizzare anche nel caso vi vogliate iscrivere alla lista nera, e vi lascio alle vostre faccende. Alla prossima!